con Alessandro Marotto di Rodaggio Film per parlare del film Neuf Doigts di François Jacques Ossang che sarà al cinema da lunedì 18 febbraio 2019. Alessandro, ben trovato. Ma grazie a voi, buongiorno a tutti. Lo descriviamo brevemente, raccontiamo un po' la trama. Allora, la trama del film è la cosa più difficile, nel senso che il regista Ossang è una persona assolutamente eclettica e straordinaria e quindi il film non ha, come dire, una narrazione lineare classica ed è anche difficile raccontare una storia, però è un bellissimo viaggio. Si parla di Cargo, si parla di peste, si parla di Polonio, si parla di post-atomico, è una storia in cui c'è dell'amore, del tradimento, delle armi, parla di attualità, ma anche con dei fortissimi riferimenti al passato. Quindi questa è un po' la trama di quello che parla, il film, insomma. Mi rendo perfettamente conto che è forse un po' ostico affrontare la trama di questo film, ma lo stesso Ossang è un regista che non è per tutti, ecco. Ecco, proprio a proposito della sua firma, cos'altro sappiamo di lui? Beh, lui è sì, un regista, un cineasta, ma è anche un musicista che con il suo gruppo storico, che ha un nome bellissimo, si chiamano i Messaggeros Killers Boy, quindi che viene un po' dall'onda punk colta francese, e quindi un noise molto raffinato, però lui è anche un poeta e è un romanziere, quindi abbiamo a che fare con una persona, con un artista a 360 gradi che si è confrontato con tutte le forme artistiche che lui apprezza, quindi la letteratura, la musica e il cinema. Questo è il suo quinto lungometraggio. Lui predilige la forma di narrazione in bianco e nero, quindi dei cinque film che ha fatto, solamente uno è a colori e continua in questa sua direzione ostinata verso questa forma poetica cinematografica che è la sua, insomma. Ecco, già vedendo solo il trailer, un bianco e nero smagliante. No, è molto contrastato, quindi lui, esatto, c'ha un bianco e nero in cui ci sono pochissime scale di grigi, o è nero o è bianco, quindi è anche molto radicale anche nella fotografia che utilizza. Ed è assolutamente cioè il bianco e nero, sì, è assolutamente la forma migliore per illustrare o narrare le storie che lui preferisce. Dove avete incontrato questo film? Allora, il film ha vinto il Bardo d'Argento come miglior regia al Festival di Locarno nel 2017 e noi che siamo una piccola realtà distributiva, la Rodaggio, assieme a un'altra realtà distributiva che è la Reading Bloom, ci ha toccato questo film, naturalmente ci è piaciuto, altrimenti non avremmo mai iniziato questo percorso distributivo assieme e volevamo dare la possibilità a Ossang, perché ci crediamo nel cinema che fa, crediamo alla sua persona, ed è giusto che un artista come Ossang venga visto in Italia, anche perché fino ad adesso non era mai stato distribuito. E questa è una cosa che ci aveva toccato molto. E quindi abbiamo deciso di fare questo percorso. Quindi il film viene da Locarno, poi ha fatto altri festival internazionali. In Italia è venuto al Festival di Torino sempre nel 2017 e arriviamo al cinema adesso nei primi mesi del 2019. Quali sono gli elementi filmici e estetici che più hai apprezzato di questo lavoro? Guarda, allora a me piace tantissimo innanzitutto questo bianco e nero che lui utilizza in forma molto radicale. E poi mi piace il suo modo di raccontare le storie, che appunto, come dicevo all'inizio, non sono mai lineari, però lo spettatore è in sala, guardando i suoi film, fa un bellissimo viaggio. Un'osservazione che vi è stata fatta più di qualche volta e che non ho nessuna paura a riportare è stato: sì, però io l'ho visto il film, bello, però non l'ho capito. Ecco, io no, è vero, però io sostengo molto questa cosa qua, ma perché bisogna capire un film a tutti i costi? Certo. Come ho detto, insomma, quando uno spettatore si siede in sala e si fa coccolare da un film come Neuf Trois, e fa comunque una bellissima esperienza di visione, si fa un bellissimo viaggio anche interiore e insomma la bellezza del film deriva anche dalla bellezza della visione, dell'esperienza che lo spettatore ha vissuto in sala. Poi, se, come dire, se non si è capito tutto del film, non importa, va benissimo lo stesso, l'importante è che sei stato bene quell'ora e mezza che hai visto il film. Ci parli anche un po' dell'esperienza rodaggio film? Guarda, noi in realtà è la prima volta che distribuiamo un film di questo tipo, perché noi nasciamo come esperienza di film legati al mondo delle due ruote, delle motociclette in particolare, della cultura motociclistica, poi ha preso anche delle derive su due ruote come il ciclismo oppure l'outdoor in generale. Quindi il nostro settore di nicchia era più quello sportivo, quindi il rodaggio film nasce in quell'ambito. Questo tipo di operazione lo abbiamo fatto perché è entrato in gioco con noi la casa di distribuzione Reading Bloom, che si occupa molto di più di cinema sperimentale, cinema delle avanguardie, restauri di film sperimentali e delle avanguardie, e quindi ci è sembrato che il loro tipo di esperienza potesse essere molto più in linea di noi rispetto al cinema di Ossang. Dopo, lavorando assieme, comunque è nata una relazione, un rapporto, una partnership che è meravigliosa e che spero durerà a lungo anche per altri progetti simili a quelli per il film di Ossang. In quante sale sarà? Allora, noi partiamo adesso il 18, come avevi annunciato tu, da Milano, al Cinema Beltrade. Il regista verrà in Italia per un tour, le sale, un tour promozionale, quindi andiamo proprio a prendere una sala alla volta, partiamo da Milano e per 9 giorni saremo in 9 sale diverse in tutta Italia, e poi partirà un percorso distributivo più lineare da marzo, aprile, e andrà avanti per lungo tempo, cioè almeno fino all'estate, se non oltre, anche perché stiamo parlando comunque di un film che non è un film di cassetta, che ha un tempo determinato e che ha una vita breve nei cinema, è un film che ha bisogno di essere visto, di cui la gente ha bisogno di parlare, e quindi avrà un respiro molto più lungo rispetto a una distribuzione cinematografica più tradizionale, come siamo abituati, insomma. In questo senso, ci lasci dei riferimenti web per saperne di più? Assolutamente, c'è la pagina Facebook del film, quindi che si intitola appunto Neuf Trois, Nove Dita, un film di Ossang, è facilmente trovabile, insomma, digitando il nome Nove Dita nella pagina Facebook, che è aggiornata, ci sono notizie naturalmente su tutto il tour del regista, che poi sarà a Roma sabato prossimo all'Apollo 11 con Giona Lazzaro a presentare il suo film, e nella pagina Facebook, dicevo, c'era tutto quanto il tour e anche tutte quante le date già definite e in corso di definizione del percorso cinematografico nelle sale da aprile e marzo, aprile e maggio. E allora ricordiamo il film Neuf Trois di François Jacques Ossang al cinema da lunedì 18 febbraio 2019. Un saluto e un ringraziamento ad Alessandro Marotto di Rodaggio Film, che ne cura la distribuzione. Un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori e viva il cinema. Ciao.